Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. La grande crisi finanziaria ha modificato profondamente l'attitudine dei risparmiatori verso le borse. La gravità del crollo impone un nuovo sforzo per comprendere la complessità dei mercati azionari. Avidità e paura condizionano fortemente i rendimenti degli investimenti a livello individuale e l'andamento generale degli indici. E gli strumenti che espongono ad un rischio azionario sono innumerevoli e utilizzabili anche dal più piccolo dei risparmiatori. Ecco il commento della quarta di copertina del libro Capire la borsa, le lezioni della grande crisi, come investire a piazza affari e sui mercati internazionali. L'autore, lo conosciamo bene, è il nostro Marco Liera, responsabile dell'inserto del sabato del Sole 24 Ore, Plus 24, è una nuova edizione del libro, rivista ed aggiornata, con anche il grande tema della crisi finanziaria recente e tutte le lezioni che questa ha impartito e sta ancora impartendo ad investitori e risparmiatori. Marco, benvenuto da noi. Grazie Deborah, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Un lavoro complessissimo quest'altro, perché anche se ci sono ovviamente i capisaldi dei temi finanziari, dell'investimento sui mercati finanziari internazionali, quest'anno ovviamente il libro lo hai dovuto rivedere anche in certi punti in maniera anche abbastanza radicale e drastica, proprio per correre dietro a tutte le notizie che sono piovute addosso a noi in questi ultimi 2 anni. Noi peraltro abbiamo approfittato anche della presentazione del libro Capire la borsa con Marco per accontentare quegli ascoltatori, e sono tantissimi, sempre davvero innumerevoli, che ci chiedono di fare ogni tanto trasmissioni dedicate alla spiegazione della terminologia finanziaria, che mi rendo conto qualche volta sia incomprensibile, a volte anche per noi stessi intraducibile, per cui oggi cercheremo anche di dare qualche supporto in questo senso. Per la vostra chiacchierata con Marco Liera, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire a Salva Danaio, ma in ogni altra trasmissione anche di Radio 24, 349 238 6666 invece il numero per i vostri messaggi. Proprio di borsa parliamo con Marco Liera e andiamo a vedere cosa accade stamattina sui mercati finanziari. Allora, ieri giornata un po' così, priva di spunti particolari, perché il mercato attendeva il nuovo avvio della stagione delle trimestrali. Ieri sera ha comunicato i suoi risultati il gigante dell'alluminio americano Alcoa, risultati in termini di utili conseguiti inferiori alle attese degli analisti. Il titolo stamattina a Francoforte sta scendendo di circa 5-6 punti percentuali, esattamente quanto ha perso ieri nella sessione cosiddetta after hours del mercato americano. Ma stamattina in apertura le borse non sembravano preoccuparsene, perché in Europa si era ripartiti di nuovo con il piede giusto, con il segno più, e poi a metà seduta inversione di tendenza, che in questo momento è anche piuttosto netta, perché Parigi perde l'1,15%, Francoforte perde l'1,26%, Londra meno 0,62% e Milano sta perdendo quasi un punto percentuale. Milano regge un po' più di Francoforte e Parigi, perché ci sono alcuni titoli che stanno andando piuttosto bene. Questa mattina la speculazione sta concentrandosi su uno dei più importanti gruppi assicurativi del nostro paese, Fondiari Assai, più 4,28%. C'è qualche indiscrezione pubblicata questa mattina dal quotidiano Il Giornale, secondo il quale c'è un possibile interessamento dell'altro colosso assicurativo, AXA, un grande gruppo francese, per la compagnia italiana. Ci sarebbe stato un contatto nelle scorse settimane che avrebbe portato ad un esito interlocutorio, ma stamattina il gruppo italiano fa sapere di non aver nessun commento a questo proposito. Bene Ansaldo, più 1,22%, bene ancora CIR, più 0,7%, la Popolare di Milano più 0,7%, più 0,6% per l'Ottomatica, con il Super Enalotto di questa sera, Snam e Retegas più 0,58%, segno meno invece su quasi tutti i titoli legati all'energia, Tenaris meno 2,48%, Saipem meno 2,26%, Tenaris meno 2,48%, Autogrill meno 2%, Atlantia meno 2%, Mondadori meno 2, Mediobanca meno 1,88, Prismian ed Eni in ribasso di oltre un punto e mezzo, anche se il petrolio ancora resiste abbastanza forte, appunto sopra gli $80 al barile. Stamattina siamo ad 82 euro su dollaro, a 1,44,80, e lasciamo la borsa, andiamo invece all'altra borsa, le analisi più approfondite sulla borsa con Marco Liera, che con il quale appunto presentiamo il suo nuovo libro, nuovo per modo di dire, Marco, nuova versione aggiornata, con quali novità rispetto alle edizioni precedenti? Beh, si tratta di un libro totalmente rivoluzionato rispetto alle edizioni precedenti, perché l'edizione precedente risale al 2005, effettivamente dal 2005 ne sono successe di cose sui mercati finanziari e anche il quadro istituzionale che regolamenta i mercati borsistici è profondamente cambiato. Quindi bisognava prendere atto di quello che è successo. Gli eventi degli ultimi 2 anni in particolare hanno rappresentato dei casi estremi di volatilità ai quali molti investitori non erano assolutamente preparati, anche se non erano del tutto sconosciuti osservando l'andamento di lungo periodo dei mercati finanziari. In effetti il lavoro che ho cercato di fare in questo libro è sintetizzare, mettere al servizio del lettore il meglio della letteratura scientifica e anche dei suggerimenti operativi che vengono appunto grazie a statistiche di lungo periodo a uso e consumo di chi, piccolo o grande investitore, vuole allocare una parte dei propri risparmi sul mercato azionario. Però questo è inquadrato anche nell'allocazione complessiva del portafoglio del risparmiatore, perché io ritengo che sia del tutto inutile e forse anche pericoloso spiegare le regole o diciamo i comportamenti più corretti nell'approcciare l'investimento azionario senza inquadrare l'investimento azionario in una corretta ripartizione del portafoglio personale. Quindi apro il libro dicendo che l'investimento in borsa non è adatto a tutti, solo una parte dei risparmiatori ha la preparazione, le condizioni economiche, la tolleranza al rischio, le caratteristiche personali per poter investire in borsa. Allora, quindi sono molto netto in questo. Io mi auguro che questo sia un libro che non finisca nelle mani di chi non ha le caratteristiche per investire in borsa. Quindi certo, prima ci vuole una autovalutazione, ecco, delle proprie o caratteristiche di investitore. Magari può servire proprio anche a questo, leggerlo e poi appunto assumere la consapevolezza che non si è un adeguato anche investitore. Sarebbe un bel esito, certo, assolutamente. Leggerlo e poi capire che forse non è il caso di investire in borsa. Volta. Certo. Parlavi dei fatti finanziari che ci hanno sconvolto negli ultimi 2 anni, sono stati tanti. Sono stati anche dirompenti in certi momenti, ricordiamo appunto l'ultimo trimestre del 2008, sicuramente la fase più dura della crisi finanziaria e adesso dell'economia reale appunto che stiamo vivendo. Si legge, si riesce a guardare a questa crisi, Marco, con sufficiente distacco, se ovviamente l'osservazione di natura giornalistica? Ci sono stati dei momenti in cui tu hai pensato siamo di fronte al crack totale, qua che cosa racconteremo domani sul giornale o sabato su Plus 24? Quali sono i fatti che ti hanno colpito di più in questi ultimi 2 anni e mezzo? Ma certamente c'è stato un periodo, mi riferisco ai primi giorni di ottobre del 2008, in cui effettivamente c'è stata una situazione di tensione molto molto particolare e unica, nel senso che c'era proprio in gioco l'equilibrio e la solvibilità di tante grandi banche internazionali. Allora lì però abbiamo visto che l'intervento delle banche centrali, delle autorità monetarie, dei governi è stato vigoroso, è stato pronto e ha evitato il peggio. Adesso però non vorrei che si introducesse invece un clima di eccessiva rilassatezza, per cui se c'è qualche grosso problema allora tanto intervengono i governi, intervengono le banche centrali e quindi il sistema torna in equilibrio. Niente di più falso, niente di più pericoloso. Questa crisi deve servire a tutti, ma soprattutto ovviamente a chi ha delle responsabilità all'interno del settore finanziario, per non ripetere tanti errori del passato, a beneficio tra l'altro di tanti risparmiatori che, vorrei ricordare, negli anni passati si erano avvicinati all'investimento azionario, magari perché indotti da intermediari finanziari, e poi, non avendo ben compreso per la cattiva consulenza ricevuta il funzionamento dell'investimento azionario, sono scappati a gambe levate. Ecco, questi sono risparmiatori che non torneranno più in borsa. Io dico, meglio per le loro finanze da un certo punto di vista, perché magari non avevano le caratteristiche per investire in borsa, però dico peccato, perché io ritengo che l'investimento azionario per tante persone possa essere, su orizzonti temporali lunghi ovviamente, una modalità di crescita della ricchezza. Non è vero che in borsa si perdono solo soldi, anche se spesso succede proprio questo. Ci sono milioni di famiglie americane che negli anni hanno aumentato il loro benessere grazie a un sano e ponderato investimento borsistico. La crisi attuale, secondo te, rischia di generare altri errori di comportamento da parte dei risparmiatori, visto che ogni crisi, più o meno forte, ne porta con sé diversi? Ma bisogna essere realistici. Noi vediamo che gli errori che sono stati ripetuti, tra l'altro vorrei dire soprattutto da parte degli intermediari finanziari, sono errori che si erano già visti nel passato. E allora poi tocchiamo il tema del consulente da scegliere, perché è una parte fondamentale del tuo libro. Quindi parentesi. Non mi stupirei che la stessa cosa accadesse per dei risparmiatori che di professione non lavorano sui mercati finanziari. Ma allora io preferisco appunto che si faccia una scelta precisa, e allora, memori dell'esperienza degli ultimi anni, tanti risparmiatori lasciano perdere gli investimenti complessi e rischiosi e si concentrano invece esclusivamente su investimenti liquidi, sicuri, prudenti. Renderanno poco, però non danno luogo a grandi delusioni. Ecco, c'è una quota di risparmiatori invece che secondo me, e non è irrilevante questa quota di risparmiatori, in Italia penso parliamo di qualche milione di investitori privati, che ha secondo me le caratteristiche adeguate per investire in borsa. Lo può fare serenamente, se ben guidato, oppure se studia, se dedica delle ore alla settimana allo studio anche dell'investimento borsistico, ma sempre partendo dalle proprie caratteristiche personali. Quindi sono molto più importanti le caratteristiche personali rispetto a ciò che sta succedendo sui mercati, che è invece purtroppo quanto molti risparmiatori guardano con eccessiva attenzione. Infatti proprio una delle nostre prime puntate di Salvadanaio di questo inizio d'anno è stata una puntata dedicata al tagliando di inizio anno dei nostri investimenti. Questo è il miglior periodo senz'altro per fare un punto della situazione, perché come dicevamo con i due consulenti che abbiamo invitato, è assai probabile che a molte famiglie la condizione finanziaria sia cambiata nel corso del 2009, perché in molte famiglie è capitato che qualcuno abbia perso il posto di lavoro e di conseguenza si sia dovuta ristudiare completamente la strategia di risparmio e di investimento. Comunque, insomma, chi volesse fare questo tagliando, Marco, noi abbiamo dato i consigli del consulente a inizio anno. I tuoi quali sono di suggerimenti? Infatti hai fatto benissimo a ricordare il cambiamento delle caratteristiche personali, che possono per esempio essere derivare dalla perdita del posto di lavoro, da periodi di occupazione più o meno lunga. Ecco, questi cambiamenti delle caratteristiche personali sono le condizioni che possono giustificare anche un cambiamento di strategia nella ripartizione del portafoglio. Quindi se stiamo parlando di risparmiatori che avevano impostato il loro portafoglio in modo aggressivo, destinando una quota abbastanza rilevante di investimenti azionari o comunque rischiosi, se c'è un elemento di incertezza così grave come la perdita del lavoro, effettivamente dovrebbero essere più prudenti, a prescindere di quello che sta succedendo sui mercati finanziari, sempre ovviamente sperando che questo sia un periodo transitorio per quanto riguarda l'occupazione personale. Vedo invece con meno favore, e secondo me meno opportuno, modificare la ripartizione del portafoglio personale sulla scorta di previsioni più o meno attendibili di quello che faranno i mercati finanziari, perché nel libro c'è una approfondita discussione sul valore delle previsioni e purtroppo non c'è nessuna verità scientifica sulla consistenza, sulla persistenza delle previsioni. Di ieri non saranno i guru di domani e viceversa. Devo dire che molti ascoltatori, questo lo ammettiamo perché non abbiamo nessuna difficoltà a farlo, quando facciamo le nostre trasmissioni dedicate all'asset allocation, quindi dove potranno andare i nostri investimenti da qui ad un determinato periodo di tempo, e molti effettivamente mettono anche in discussione questo nostro modo di fare giornalismo, e però insomma anche su quello bisogna ogni tanto fare qualche ragionamento, perché e poi voglio dire gli uffici studi delle grandi banche quello devono fare anche per pilotare un po', Marco, cioè quindi dobbiamo anche noi per forza dar spazio in sostanza a questi. Anche il tema dei report è molto interessante, perché molti ascoltatori ci chiedono, magari addirittura qualcuno è molto incuriosito, ti faccio questo esempio dalla mia professione, mi chiede: ma tu per esempio hai il rapporto di una casa di investimento su un titolo prima che questo venga pubblicato? Mai, quindi state pur tranquilli che insomma noi non abbiamo anche come giornalisti informazioni di prima mano rispetto invece a coloro che devono averla appunto queste informazioni. Insomma, tanti temi di cui continueremo a parlare nella nostra trasmissione, adesso dobbiamo andare in pausa. Vabbè, colgo la domanda di Marco da Torino, perché la volevo fare io a Marco Liera. Marco, la lascio fare a lei. Buongiorno, rapidissimo. Buongiorno. Sì. Sono in linea? Sì, è in linea Marco, in diretta. Ah, buongiorno. Senta, innanzitutto complimenti perché fa veramente una trasmissione di grande livello. Senta, grazie. Per Marco Liera volevo chiederle che lui di descrivere un po' meglio il libro, perché io libri di Borsa ne ho letti tantissimi. Sì. Se è un libro descrittivo, se ci sono capitoli sul trading system, se dà un metodo. Benissimo. Allora, intanto guardi. Sì, Marco, senz'altro. Adesso andiamo a spulciare meglio nei capitoli di Capire la Borsa. Intanto, Marco, l'editore Il Sole 24 Ore, giusto? Sì. Dove lo troviamo? In edicola? È in libreria e sul sito internet del Sole 24 Ore. Lo possono acquistare sicuramente tutti, ma qualcuno proprio ci chiede il dettaglio del contenuto, Marco. Ovviamente, oltre all'ABC dell'investimento in borsa, in realtà il libro, che è di 340 pagine e rotte, in sostanza contiene anche qualcosa di più, anche il trading system di cui parlava l'ascoltatore. Molto affascinante. Dico prima che cosa non è Capire la Borsa: non è un libro per diventare ricchi in fretta. Molti ci provano, non so con quali risultati. Come quelli che ci chiedono quando facciamo l'asset allocation: parlate di tutta fuffa, dateci il nome di un titolo su cui investire. Perfetto. Niente di più sbagliato. Ci sono tanti che offrono questi consigli, si rivolgono a loro, poi dopo dei risultati parleremo in un'altra sede. La speculazione, anche questa, è studiata più per le conseguenze che ha sui mercati e sull'andamento dei titoli che non come attività da incoraggiare, perché ecco, quando si parla di trading frequente e mi si chiede quale libro devo prendere per imparare a fare trading frequente in borsa, io gli dico: prenditi un libro sul poker online, perché tanto non c'è grande differenza tra il poker online e il trading frequente, nel senso che sono attività dove l'informazione e la formazione non possono essere molto sistematizzate, perché sappiamo che si tratta di attività dove la casualità ha un peso enormemente rilevante. Invece, per costruire un portafoglio aderente alle proprie caratteristiche e inserire nell'ambito di questo portafoglio l'investimento azionario nelle giuste modalità, beh, questo libro può fornire una guida operativa, a mio avviso, completa, mettendo in evidenza anche tutti i rischi di perdita che possono emergere dall'investimento azionario, non soltanto su periodi brevi, perché anche questa storia che l'investimento in borsa nel lungo periodo paga sempre, beh, è assolutamente vera per quanto riguarda lunghi periodi del passato, ma non ci garantisce affatto su quello che potrà accadere in futuro. Quindi chi investe in modo consapevole in borsa deve sapere che anche su orizzonti di 10 anni, guardiamo la storia dell'ultima decade, la peggiore della storia, esatto, dell'investimento borsistico. Il minimo del 9 marzo aveva cancellato 12 anni di storia di borsa. E non era neanche la prima volta che ciò accadeva, perché periodi prolungati di ribasso o di rendimento assolutamente nullo delle azioni ci sono già stati nel passato. Ecco, quindi chi si avvicina all'investimento borsistico con l'idea di guadagnare più dei titoli di Stato nel giro di 3-5 anni, beh, non fa un grande favore ai propri soldi. Questo non significa che non debba essere possibile, come io non escludo che ci possano essere dei trader bravi, professionali, molto disciplinati, probabilmente anche in possesso di talento naturale, che riescono a guadagnare in modo stabile. Ma questo accade per ciò che hanno fatto fino ad oggi. Anche per questi non possiamo sapere, non possiamo prevedere ciò che potrà accadere in futuro. C'è a pagina 41 una serie di indicazioni molto utili. Il paragrafetto si chiama "Idee chiare prima di cominciare", e c'è un primo suggerimento concreto per chi si vuole approcciare al mercato finanziario, al mercato azionario in particolar modo. Perché i privati investono, si può tentare di soddisfare, o si può cercare di raggiungere l'obiettivo di soddisfare i propri bisogni finanziari, oppure per speculare, atteggiamenti radicalmente diversi. Prima di partire allora con l'investimento in borsa bisogna cercare di collocarsi, Marco? Sì, io ho un grande rispetto anche per la speculazione, perché ricordiamo che ci sono tante investment bank che per anni hanno fatto profitti favolosi con il trading, quindi come dicevo prima non posso escludere che anche privati investitori col trading possano fare dei soldi in modo più o meno sistematico. Ma attenzione, anche le grandi investment bank che si ritenevano, no, gruppi adunate di grandi cervelli, poi alla fine possono commettere dei grossi errori. Ricordiamo il caso di Lehman Brothers. Infatti. Cioè Lehman Brothers rappresentava un grande caso di capitale intellettuale che però è finito insolvente. Quindi se questo è accaduto per Lehman Brothers, potrebbe accadere in futuro anche per trader privati che si affidano a sistemi di speculazione più o meno validi. Chi invece vuole investire in borsa, tra l'altro devo dire, continuando a vivere una vita normale, perché ricordiamoci che chi vuole fare trading deve dedicare ore e ore allo studio dei mercati e ad analizzare titoli e andamenti, beh, invece chi vuole vivere una vita normale e utilizzare l'investimento borsistico per far crescere i propri risparmi, beh, lo può fare senza appunto diventare un genio della finanza, perché le informazioni necessarie non sono tantissime, anzi è meglio dire che ci sono tante informazioni di cui non si hanno bisogno, e quindi infatti, in questo modo si evita di perdere del tempo. C'è un articolato capitolo nel tuo libro dedicato anche a questo. Adesso ci andiamo, allora abbiamo ripescato Maria Luisa da Lucca che avevamo perso. Maria Luisa, buongiorno, guardi che Marco Lera è molto contento di dialogare soprattutto con le signore, con le ragazze, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo dire che tutte le volte che mi sono avvicinata alla borsa l'ho sempre preso nel fiocco, nel senso, sempre. Allora, cominciai con l'interbancaria azionaria e le mette, avevo comprato la casa, nessuno mi avanzava un centesimo, ma arrivò la cessione del quinto, 10 milioni, le mette, insomma, dopo 3 anni di 10 milioni ne hai presi 9 o 4, e per me era mezzo stipendio da infermiera professionale. Insomma, e vabbè, lasciamo andare. Mi sono riavvicinata alla borsa con l'Alitalia, con l'italianità dell'Alitalia. È vero che sono azioni, però diciamo anche che era del Ministero del Tesoro. E allora, se una ditta va male, il Ministero del Tesoro non si doveva permettere di tenerla in borsa, visto che ci rimetteva, perché sembra che l'Alitalia abbia fatto utili, io l'ho saputo dopo naturalmente, se no col cavolo che gli davo soldi. Ho saputo che ha fatto utili solamente nel 2002 e poi è sempre stata una rimessa. E allora questo vuol dire voler proprio fregare i piccoli risparmiatori. Il caso, insomma, di Alitalia, certo. Mille azioni sono volatilizzate. E quindi lei come gestisce i suoi risparmi, Maria Luisa, visto che comunque dal punto di vista del mercato azionario è così completamente insoddisfatta? Come ha risolto? Io da me, però, esempio, sono stata anche esempio, io avevo un conto corrente, cassa di risparmio di Pisa, poi è diventata di Lodi, un giorno io dovevo entrare al lavoro, erano quasi le 2 e via, quasi tocco e mezzo, ho sbagliato, come io entravo alle 2 però, e via, prendi le azioni, diventi social, dai, ce l'hai sul conto corrente, dai, diventi social, insomma, morali della favola, le prime me le hanno fatte pagare 12,50, le prime 200, poi me ne regalarono 30, insomma, erano 8,85. Vabbè, sul regalo poi, qualche dubbio. Insomma, morali della favola, sa qual è stata, che la borsa andava bene e io ho fatto la minusvalenza. Cosa vuol dire la minusvalenza? Che io ci ho sempre rimesso, e quando chiedevi ma cos'è questa minusvalenza, da una parte ne entrava, da quell'altra ti usciva. E ora ho preso anche quelle del Sole 24 Ore, no, ho pagate no. 5,75 e sono sotto 2 euro. Questo è il guadagno della borsa per noi piccoli risparmiatori. Maria Luisa, cretini che ci caschiamo. Allora intanto, come dire, la sua situazione, se non fosse che effettivamente si presta molte considerazioni, che evidentemente è stata seguita male, ha scelto l'intermediario sbagliato, ha un approccio anche alla borsa, Maria Luisa, perché una persona che si lascia tentare dall'Italia, io capisco che lei dica ho scoperto dopo che è stata inutile solo nel 2002, ma su Alitalia, sulla condizione di dissesto finanziario, Maria Luisa raccontiamo da anni e scriviamo da anni, per cui lì la promessa del salvataggio da parte del governo ha fatto cadere in trappola molte persone, e noi un po' in guardia avevamo messo, adesso non è per fare i bravi, col senno di poi è facilissimo, però a parte questo, cosa ci suggerisce il caso di Maria Luisa? Intanto fare la sottoscrizione di un titolo quando si sta andando al lavoro e si riceve una telefonata per il rotto della cuffia, Maria Luisa, non si deve mai fare, si deve fare una bella chiacchierata con l'intermediario e convincersi davvero della validità dell'investimento. Quindi Marco, no, attenzione alle telefonate prima, del pomeriggio dalla banca. Ci sono tanti risparmiatori che avevano le caratteristiche per poter investire in borsa se solo fossero stati guidati correttamente. Mm-hmm. Io penso che la nostra ascoltatrice di Lucca era una di queste, ma le esperienze che ha avuto sono esperienze dovute soprattutto all'approssimazione del suo intermediario finanziario, tra virgolette, di fiducia, la indurranno probabilmente a non tornare più in borsa, che a questo punto, devo dire, è il minore dei mali, forse è la migliore migliore soluzione, no? Cioè comprendere tre che errori su tre, non si riesce a trovare un intermediario adatto, non si ha magari il tempo, la voglia di studiare, perché questo è un requisito per investire in borsa, soprattutto quando si tratta di investire in singole azioni, beh, allora la scelta più naturale è lasciar perdere la borsa e le azioni. Allora, tra l'altro, sempre a proposito di investimento sul mercato azionario, c'è un ascoltatore, Fabio, che dice: bisogna imparare a vendere in perdita, cosa semplice a dire effettivamente. Bisogna essere perfettamente consci e consapevoli che l'investimento azionario può portare anche a questo, e quando si comincia a vedere il patrimonio che si riduce, si ridimensiona, Marco, bisogna avere il coraggio a volte di avere delle azioni, anche di fare delle azioni radicali. Assolutamente, nel libro c'è un ampio paragrafo dedicato alla cosiddetta strategia dello stop loss, quindi fissare un limite alle perdite, che va benissimo quando la borsa fa vedere la sua faccia più brutta. Chi avesse applicato un criterio di stop loss nel 2008 si sarebbe risparmiato un crollo del 30, 40, 50% sul valore delle sue azioni. Ma attenzione, qui ci sono dei validi studi universitari che dimostrano come una strategia di stop loss applicata in modo sistematico in realtà su orizzonti significativi non conduce a migliori risultati di una semplicissima strategia compra e tieni. Questo perché in 4/5 del tempo l'investimento azionario ha dimostrato di essere o stabile o in crescita. Quindi lo stop loss serve a evitare i famosi cigni neri, cioè gli eventi estremi, che è già un ottimo risultato, ma non bisogna illudersi che possa procurare dei rendimenti superiori nel lungo periodo. Visto che abbiamo promesso agli ascoltatori di fare anche un po' di chiarezza sulla terminologia finanziaria più complessa che utilizziamo, tu l'hai già definita parzialmente, ma proprio l'esempio concreto dello stop loss. In sostanza io dico alla banca: al di sotto di quello non voglio far perdere il mio patrimonio, quindi ad un certo punto vendi se scende. Sì, la modalità più semplice è quando si acquista contemporaneamente si inserisce un ordine di vendita con un prezzo limite che è fissato a un -10, -15% a seconda. Qui ci sono varie teorie della, molto filosofiche, anche perché assai poco supportate dal punto di vista statistico. Comunque io lì inviterei i risparmiatori magari a fissare più che altro un limite psicologico. Qual è il limite oltre il quale non sono in grado di andare? Ciò detto, è anche vero che chi si avvicina all'investimento borsistico dovrebbe avere anche la prontezza a subire certe perdite, perché altrimenti sono io il primo a dirgli: stai lontano dalla borsa e dalle azioni, no? Allora, devo portarti saluti, caro Marco, lì era di Buddy Fox, che è un nostro ascoltatore molto, molto fedele di Salvadanaio, un lettore molto fedele. Esatto. Lo conosco. Esatto, no, perché adesso, a parte i saluti a te, fa anche un'altra considerazione molto divertente, molto pertinente. Questa è la dimostrazione, quello che stiamo raccontando questa mattina, che in Italia, ma non credo solo in Italia, la borsa è un po' come il bar dello sport, sono tutti allenatori, sono tutti bravi. Effettivamente questo l'abbiamo visto soprattutto nella fase peggiore della new economy. Ti ricordi, Marco, quando tutti c'erano, l'abbiamo ricordato anche qualche giorno fa, la fila fuori dalla banca per andare a comprare le Ibiscom, le Tiscali, portare a casa dei guadagni incredibili, ma poi questa è la differenza con il bar dello sport tradizionale, che qui si può anche sparare quello che si vuole sull'andamento della borsa, ma poi in gioco ci sono i nostri risparmi, se uno ce li mette, no? Mentre invece se io vado al bar sport a parlare di calcio non mi espongo a delle gravi perdite sul mio patrimonio, no? Quindi io ho cercato anche in questo libro, poi nel lavoro che cerchiamo anche di svolgere ogni giorno su Sole 24 Ore, ogni sabato su Plus 24, cerchiamo di essere il più possibile oggettivi e anche scientifici, perché c'è un grande bacino di letteratura e di studi dell'Accademia sull'investimento sui mercati finanziari. Cioè in questi anni in particolare ci sono stati degli enormi passi avanti nell'esame degli andamenti dei mercati, e effettivamente su tanti temi, su tanti dubbi ancora non siamo arrivati a delle verità scientifiche, ma questo forse è il grande insegnamento di questi studi, è che non esistono delle ricette per quanto riguarda l'investimento sui mercati finanziari. Non c'è il dogma, non c'è la regola aurea. Bisogna essere molto aperti, molto pronti agli eventi estremi e anche a subirli, perché non sempre gli eventi estremi si riescono a limitare, prevedere quello lo escludiamo proprio a priori, ma neppure a volte si riescono a limitare, no? Quindi bisogna avere questa mente molto aperta nell'approcciare l'investimento sui mercati finanziari, che per loro natura sono estremamente complessi, sono il frutto delle decisioni di milioni di soggetti, operatori, risparmiatori, no? E non c'è mai una legge predefinita che governa questi scambi. Non bisogna d'altra parte neanche sottovalutare l'intelligenza del mercato. Alcuni ritengono: ah, ma io riesco a capire quando un titolo è sottovalutato sulla base di vari indicatori, oppure sulla base del mio naso, della mia esperienza. Anche questo è spesso un'illusione, perché i mercati finanziari, come sintesi dell'applicazione dell'intelligenza di più persone, spesso possono dare delle informazioni molto più intelligenti di quelle che può dare il singolo operatore. Alla fine la borsa può essere anche, può dare dei valori sbagliati, esagerati, al ribasso, al rialzo, ma attenzione a non sottovalutare l'intelligenza del mercato. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per le vostre telefonate. Allora, abbiamo due casi estremi, di uno completamente, di un ascoltatore totalmente insoddisfatto dell'investimento azionario, di un altro invece molto soddisfatto. Allora cominciamo con l'insoddisfatto, che abbiamo salutato prima, Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno signorina, senta, io volevo dire, il mio referente era il Credito Italiano di Roma, una grossa banca, io non è che ero esperto in titoli, e volendo acquistare qualcosa, c'erano i titoli Binda, la cartiera Binda, ne comprai per 4-5 milioni se ricordo bene. Sì, Francesco, ma non abbiamo idea di che società sia. Milano Finanza lo votava per volare, ma credibile, un po' tutti quanti. Dopo una settimana questo libro fallisce la società Binda. Ecco. Io sono rimasto scioccato. Beh, lì la banca va denunciata seduta stante, sì. Vabbè. No, io ho fatto un esposto al Tribunale di Milano, dichiarando, allegato addirittura i giornali di Milano Finanza che votava di Binda, pensi un po'. Sì. Nessuno mi ha mai risposto. Allora, a questo punto, che c'è una selvaggia speculazione anche da parte delle banche, questo signore che sta parlando, se non c'è credibilità, non c'è correttezza, non serve a niente. Allora, Francesco, sì, peraltro questo è un po' il caso che potremmo paragonare anche, non lo so, ai vecchi Marco Cirio, quando per salvare quasi la società dalla bancarotta, in sostanza si collocarono fra i risparmiatori tutte le obbligazioni del gruppo, che poi è fallito, ci ricorda sicuramente anche Parma. Credo che adesso le banche un atteggiamento di questo tipo difficilmente potrebbero averlo, però non lo so, qui parliamo di una situazione abbastanza limite. Sì, soprattutto perché adesso la legge impone alle banche e agli intermediari finanziari di rendere tracciabile il processo di consulenza. In passato era anche difficile che il risparmiatore avesse ricevuto un certo consiglio, no? Perché non c'era traccia, non c'era nessun documento che potesse provarlo. Adesso invece, con la direttiva MiFID, noi abbiamo un sistema che ha portato a una tracciabilità del processo di consulenza. Questo è molto importante, perché poi i risparmiatori riescono a farsi tutelare in giudizio in modo assai più efficace di quanto non accadesse in passato. Ti faccio sentire invece il soddisfatto, Renato da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo dire una cosa. Io è dal 74 che bazzico in borsa. Bazzico, sì. E devo dire che ovviamente nel bene e nel male io le cose faccio il consultivo di quello che mi è capitato nei miei investimenti. Mi sembra sempre che le persone che telefono parlano sempre di 2 o 3 o 4 titoli che sono andati male. Anch'io nel mio giardinetto ho dei titoli che sono sotto ancora in un coso pauroso. Ho degli altri che in questi 35 anni mi hanno fatto vivere decorosamente, certo, ovviamente il mio lavoro, e mi hanno permesso di dare la laurea alle 2 figlie e comprargli l'appartamento tutte e 2. Perché non ho mai avuto, detto in dialetto bresciano, la gola più lunga del col, come dicevano i nonni. Non ha mai fatto il passo più lungo del... Ah, sì. E ci sono le persone che vedono un titolo, io mi ricordo qui a Brescia, c'è stato la BPOC da 30.000 lire, quando era ancora in lire, sì, è arrivato a 240.000. Io quando sono andato a 60.000 le ho vendute, perché ho detto raddoppiavo, direi. E dopo mi dicevo, però se ritenevo, però quando un titolo che può valere 30-40.000 lire mi va a 240.000 non lo vado più a comparare, perché a un certo momento c'è un rischio certo. enorme. Renato, lei ha detto una cosa fondamentale. Renato, la ringrazio molto per la sua ricetta, la sua piccola guida all'investimento. Come dobbiamo, come dire, individuare anche il limite minimo della nostra, anzi limite massimo, Marco, della nostra perdita, sicuramente dobbiamo anche poter individuare quel livello del rendimento del nostro investimento che ci può accontentare, anche se potenzialmente l'investimento potrebbe crescere ancora molto. Sì, innanzitutto onore e merito al nostro ascoltatore di Brescia, perché è un esempio, non so quanto diffuso, di investitore in borsa consapevole, lo fa da tanti anni, è assolutamente consapevole di come sta andando il suo portafoglio complessivo, quindi su quali titoli sta perdendo, su quali titoli sta guadagnando. Per quanto riguarda questo equilibrio sempre molto difficile da trovare tra avidità e paura, beh, qui io voglio soltanto citare una regoletta di cui si parla anche abbondantemente nel libro, e cioè del diverso livello che noi stessi attribuiamo da una parte alle perdite effettive e dall'altra ai mancati profitti. Allora, una delle poche verità, diciamo abbastanza condivise, che si è arrivata in ambito, a cui si è arrivati in ambito scientifico, è appunto quello che attribuisce a ogni perdita, in termini proprio di carico emotivo, un'importanza doppia rispetto al mancato profitto. Quindi vuol dire che il nostro radioascoltatore ci diceva di avere perso la possibilità di guadagnare di più sulla Bipop, ma questo è stato assai meno doloroso di poi perdere dei soldi sulla Bipop stessa. Quindi fa bene il nostro ascoltatore a porre magari un limite anche ai lucri e ai guadagni, perché questo poi magari lo può portare a dei risultati finanziari inferiori, intendiamoci. Non sto introducendo un trading system in questo modo, ma fa del bene al proprio benessere psicologico, che è quello che dovremmo avere al centro del nostro orizzonte di investimento, no? Al di là del rendimento finanziario, pensare a noi stessi, alle nostre reazioni di fronte alle perdite possibili, che possono essere molto gravi, certo, sul mercato azionario, e anche all'impatto dei lucri cessanti, dei mancati profitti. Infatti, e possono essere anche delle perdite, oltre che molto forti, anche inattese, e quelle sono a volte, sono anzi, sempre molto più dolorose. Questo è un altro ragionamento che abbiamo fatto con un'altra persona che tu conosci bene, che è Matteo Motterlini, uno dei guru della finanza comportamentale del nostro paese. La perdita inattesa ci catapulta nel dramma. Perché poi procura la possibilità di fare ulteriori errori. Siamo veramente assaliti dall'emotività in quel momento, e quindi possiamo sbagliare ancora. Allora, sul tema dell'educazione finanziaria, della terminologia, le operazioni straordinarie che interessano al mercato, ho notato oggi molti ascoltatori che volevano intervenire sull'aumento di capitale di Unicredit, e molti che ci hanno scritto al 349-238-6666. Non ho fatto domande a Marco su questo, perché la puntata di Salvadanaio di domani sarà interamente dedicata a questa operazione, per capire la dinamica, per capire che cosa significa fare un aumento di capitale, per capire se per gli azionisti questa è un'operazione conveniente o meno. L'ultima domanda che la facciamo fare a Fiorella da Firenze. Buongiorno Fiorella, rapidissima se ce la fa, la ringrazio molto. Sì, buongiorno a voi. Ecco, io sostanzialmente volevo dire che sono da poco tempo un'investitrice in borsa e ho avuto risultati soddisfacenti. Sì. Purtroppo però sono stata in un'esperienza negativa, per la quale volevo chiedere un attimo delle indicazioni tecniche, cioè al di là della perdita, quali sono le conseguenze investimento. Nel caso specifico posso parlare di Mariella Burani, la quale non solo è stata sospesa dal mercato, ma si parla addirittura di ipotesi di fallimento. Default. In questo caso mi chiedo quali possono essere le conseguenze per l'investitore, nel senso, anche se poi un domani ci sarà una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, come si vocifera, se ci sono. Fiorella, abbiamo pochissimo tempo, io devo salutarla. Allora guardi, non so se con Marco Liera riesco ad affrontare questo argomento adesso, perché mi mancano 30 secondi. Allora, certo che di fronte ad un crack finanziario, perché ha fatto l'investimento sul mercato azionario, Marco ha ben poche possibilità di recuperare granché. Seguiremo questo caso. Il problema è che non se ne parla adesso delle difficoltà finanziarie di questo gruppo, quindi io mi chiedo chi ha investito anche di recente perché lo abbia fatto. Non lo so, vogliamo fare una conclusione? lasciamo stare. Che è meglio non avere tutti i soldi investiti in un solo titolo. Eccolo mi sento qua. Di dire. Allora, soprattutto no, se si tratta di promettiamo azioni. All'ascoltatrice di andare anche su questo caso qualora si profilasse un altro crack nel nostro paese. Marco Liera, Capire la Borsa, tra l'altro nella sede del Sole 24 Ore, presentazione ufficiale al mercato di questa iniziativa l'8 febbraio. 8 febbraio qui in Sala Collina presso la sede del Sole 24 Ore a Milano. Capire la Borsa, la lezione della grande crisi, edizione il Sole 24 Ore, l'autore Marco Liera, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore. Ciao, in bocca al lupo per il libro e per tutta la tua avventura professionale. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. A domani.